Ma va là, col cielo e con le stelle, rider fai, persino le cagarelle, ed il mare è sempre blu. C'è per questo male un rimedio che ne vale sei. Tu mi puoi parlare d'amore imparando a dire ok. Ma va là, se vuoi parlare d'amore, non tener le mani sopra il cuore, sospirare a tu per tu. Ma